9 in punto. Buongiorno da Gianfranco Fabi, buona estate a tutti. In questo agosto abbiamo tanti argomenti in primo piano. Ieri abbiamo parlato dei mercati finanziari, parleremo nei prossimi giorni della realtà italiana, dell'economia italiana. Oggi ci soffermiamo sul Medio Oriente, la Siria. Avete già sentito nel GR il servizio di Alberto Negri, la Siria in primo piano con la repressione in atto da parte del governo di Bashar al-Assad e con la difficoltà da parte del resto del mondo di fare qualcosa. Proprio ieri si è riunito il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ma c'è stato nulla di fatto, è stata rinviata la discussione, i due fronti si sono trovati ancora contrapposti, da una parte gli occidentali e dall'altra Cina e Russia, tutti uniti nel condannare ovviamente la repressione, ma divisi sul cosa fare. E allora cosa fare? Lo vediamo oggi per quanto possiamo vedere noi dal nostro punto di vista. Saluto i nostri ospiti, il professor Vittorio Emanuele Parsi. Buongiorno Parsi. Buongiorno. Docente di relazioni internazionali della Cattolica di Milano, è ospite spesso dei nostri programmi, lo ringraziamo per la sua cortesia. L'inviato del Sole 24 Ore Alberto Negri, buongiorno Negri. Buongiorno a tutti voi. Grazie Alberto. E il professor Francesco Mazzocotelli, buongiorno professore. Buongiorno. Dottore di ricerca di istituzioni e politica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e attento osservatore dei temi medio orientali. Io inizierei dal professor Parsi ed inizierei da questo mancato accordo alle Nazioni Unite. Cioè, si sono veramente riformati i due fronti contrapposti, gli occidentali e gli orientali, per così dire, se possiamo essere banali appunto della definizione, da una parte gli Stati Uniti e l'Europa, dall'altra la Russia e la Cina, nell'osservare la vicenda siriana. Ci sono ancora questi confini ideologici, professor Parsi? In qualche modo sì, anche se le motivazioni sono ovviamente diverse rispetto al passato. Per quanto riguarda la Cina, c'è una tradizione di sovranismo, per così dire, cioè di visione estremamente radicale di quelli che sono i diritti della sovranità. Nel caso cinese si spiega dal punto di vista storico, nel senso che la Cina ha conosciuto quello che i cinesi chiamano il secolo della vergogna, dal 1848 sostanzialmente la guerra dell'oppio, al 1948 la rivoluzione cinese, in cui la Cina è stata vittima delle pretese, dei soprusi delle altre grandi potenze. Questo ha lasciato un radicamento molto forte nella cultura politica cinese, di grande diffidenza rispetto a quello che è l'intervento internazionale, che poi si è confermato nella storia politica più recente. Tenete presente che la Cina, per esempio, ha usato pochissime volte il diritto di veto che pur possiede, sempre per bloccare risoluzioni che riguardavano i suoi interessi nazionali nel senso stretto, Taiwan piuttosto che Hong Kong, eccetera. Dal punto di vista russo c'è un riflesso condizionato che è il vecchio legame con la Siria. E ci sono corposi interessi, non dimentichiamo, la Russia cerca di rientrare nel tavolo mediorientale, da cui è stata sostanzialmente esclusa ancora prima della fine della guerra fredda. E quindi è molto molto attenta a usare qualunque strumento possibile per poter rimettere i piedi in quell'area del mondo. Queste cose purtroppo unite ai, parliamoci chiaro, ai non successi occidentali, in termini di interventi mediorienti di questi ultimi anni, combinati insieme, rendono l'intervento nella questione siriana già di per sé delicatissimo molto molto difficile. Ecco, possiamo dire, professor Parsi, che in fondo anche l'ancora mancato successo nell'intervento in Libia pesa sul fronte occidentale, anche su interventi non di carattere militare, ma anche su altre possibilità di azioni, interventi magari di embargo, ma rigido verso un'eventuale crisi come quella siriana. Cioè, la Libia è ancora un fronte aperto in fondo, professor Parsi. Anche il fatto che la Siria è un attore importante nel grande gioco della guerra del conflitto arabo-israeliano, e quindi qualunque intervento nei confronti della Siria comporterebbe un oggettivo vantaggio, per così dire, per Israele, e questo anche i paesi arabi che sono in questo momento non particolarmente favorevoli al regime di Assad, che è l'Arabia Saudita, che non ha nessuna simpatia per la Siria, per il regime siriano, però non potrebbe vedere di buon occhio un intervento che andasse a limitare il peso di un paese, che resta comunque un paese in prima linea nel confronto arabo-israeliano. Quello che succede in Libia, tutto sommato, nasce e muore in Libia, prendiamoci chiaro. Quello che succede in Siria invece ha conseguenze sull'equilibrio regionale, sulla questione di un conflitto che dura da decenni, da oltre mezzo secolo, che ha implicazioni molto molto complicate e rendono tutto sommato anche l'Occidente molto preoccupato, molto volenteroso di fare qualcosa, ma estremamente prudente e tutto sommato anche estremamente nei fatti non così attivo come si vorrebbe far credere. Indubbiamente, anche perché, come diceva giustamente il professor Parsi, lo scenario è forse diverso. In Libia c'è un problema cui l'Europa è direttamente collegata, bisogna essere realisti, che è quello del petrolio. In Siria la Siria non ha ricchezze petrolifere, ma ha un ruolo cruciale in questa regione, appunto tra l'Iraq e sappiamo le vicende irachene, Israele, sappiamo la situazione medio orientale, lei l'ha richiamata, e appunto questo ruolo in fondo rafforza il fatto che in Siria comanda la Siria, professor Parsi. Beh sì, Assad è attentissimo a questo, cioè Assad è una persona che si sta comportando in maniera, come adesso sapevamo, spregiudicata, ma non è uno sciocco, sa bene che la carta internazionale è una carta importantissima, infatti questa carta non ce l'aveva a disposizione, Assad ce l'ha a disposizione e la gioca nella maniera più attenta possibile. Il colore della Siria, del suo regime, potrebbe comportare conseguenze gigantesche e non positive, parliamoci chiaro, per l'Iraq, per la Turchia, per Israele, per il Libano, che resta, che è tornato a essere tutto sommato purtroppo un feudo siriano, per cui è estremamente pericoloso mettere le mani, diciamo così, in questo ingranaggio che è il ruolo della Siria nel Medio Oriente. E Assad lo sa e si gioca la sua carta. Nessun altro avrebbe potuto fare quello che ha fatto Assad, non tanto e non solo in termini di morti, ma in termini di prolungata repressione. Quell'unica cosa vera che gioca contro Assad è la continuazione delle proteste. Cioè, il problema del regime è che sa benissimo che se continuando a sparare la gente non si ferma e continua ad andare in piazza, non è che può andare avanti a ammazzare tutti i suoi sudditi. Prima o poi la cosa finisce, e quindi questa è un po' la preoccupazione. Lo spettro di Assad, con tutte le differenze che conosciamo, è l'Iran dello Shah degli anni 70, anche lì la repressione fu violentissima, i morti furono migliaia, ma dopo quasi un anno di manifestazione alla fine il regime cadde, perché quando tu spari le persone si spaventano e non scendono in strada, non è che li uccidi gli oppositori, anche se gli altri. Anche se Assad ha creato poi una barriera, è quasi impossibile entrare in Siria, è quasi impossibile avere notizie, però quello che si sa, quel poco che si sa, è comunque una realtà di repressione, una realtà che, come diceva Alberto Negri nel servizio GR precedente sull'articolo Sole 24 Ore, è comunque una realtà che va avanti da decenni con il padre di Assad, che continua con questa repressione e che appunto trova la comunità internazionale un po' disarmata. Allora, Alberto Negri, che cosa si sa veramente dal fronte siriano? È così difficile avere delle notizie reali, Alberto? Ma la realtà è questa, che il regime siriano, e lo sa perfettamente, non cede, perché il suo migliore alleato siamo noi, la nostra realpolitik, lo diceva bene anche Vittorio prima. Questo è un regime la cui caduta, come quella di Saddam Hussein in Iraq, potrebbe aprire un vuoto di potere terrificante nel cuore del Medio Oriente, tra Israele, Turchia, Iraq e Libano. Dentro che cosa succede? Ma succede purtroppo qualche cosa che abbiamo già visto accadere in questo paese. Alla fine degli anni Ottanta ci fu una forte ascesa dell'opposizione dei fratelli musulmani, che arrivarono addirittura a uccidere centinaia di cadetti nella scuola militare di Aleppo. La reazione del regime fu terrificante, proprio in quella città di Hama, dove sono entrati in questi giorni i carri armati facendo altri massacri. Ma allora il massacro fu ancora più grande. In un silenzio assordante della comunità internazionale vennero uccise dalle 20-30 mila persone, qualcuno dice 40 mila, la città venne completamente rasa al suolo. Io ricordo ricordo perfettamente che per molti anni noi giornalisti non siamo mai potuti entrare ad Hama. Addirittura c'era una sorta di deviazione sull'autostrada, sulla strada principale, che evitava di entrare nella città che doveva essere ricostruita. Furono rase al suolo persino le moschee omayyadi. Cioè, questo regime in realtà molto simile in fondo a quello di un altro partito batista, quello di Saddam in Iraq, ha sempre usato tutta la violenza possibile per reprimere ogni dissenso. Questi sono regimi ai quali interessa essere più temuti che amati. Questa è la realtà. E in fondo ci hanno fatto anche comodo per molto tempo. L'opposizione può fare alcune cose, ma la verità è che tutto è in mano al signor presidente Bashar Assad. Ecco, quello che si dice, Alberto Negri, scusa, quello che si dice è anche quello che in Siria manca una reale alternativa, una reale opposizione, anche una possibile caduta di Assad lascerebbe aperta appunto la strada a dei conflitti interni senza prospettiva. Quanto in fondo poi è avvenuto anche in Iraq con la caduta di Saddam Hussein, che era un tiranno ma garantiva comunque una certa stabilità sociale attraverso ovviamente la repressione. Allora, quale può essere, e anche questo uno dei fattori che rendono più forte Assad, la mancanza di un'alternativa credibile a livello interno? Intanto, mentre passo la parola a Alberto Negri, ricordo agli ascoltatori l'800 24 00 24 per le vostre telefonate e il 349 238 6666 per i messaggi SMS. Alberto Negri. I regimi che hanno 40 anni di dittatura, come quello siriano, quello iracheno, in parte anche quello libico, è difficile che si possa creare di punto in bianco un'opposizione definita, credibile o in qualche modo assolutamente identificabile. In Siria possiamo identificare alcuni elementi, c'è certamente un'opposizione di stampo religioso, anche se questa rivolta non ha, come tante altre in questa primavera araba, non ha avuto identificazione puramente religiosa, è stata una delle componenti, anche un'opposizione laica, ma certamente questi 40 anni sono serviti proprio a regimi come questo per tagliare ogni possibilità di dialettica interna e adesso ricomporre in qualche modo, addestrare, fare un training a questa opposizione non è per nulla facile. Certo, quello che si teme è proprio questo, che non emergano forze che in qualche modo possano tenere sotto controllo un paese che ha molte componenti etniche e settarie, perché lo stesso regime è detenuto e lo stesso potere è detenuto in Siria da una minoranza religiosa musulmana, che è quella alawita, una setta eterodossa su cui si potrebbe discutere tra l'altro molto se sono davvero dei musulmani o no, ma che comunque in qualche modo è riuscita sempre a giocare tra le divisioni del paese per restare in sella. Ecco, quindi più politica, più realpolitik che non ideologia, che non religione, questa è la realtà in fondo di un paese in cui c'è un regime che rappresenta se stesso, è una minoranza della popolazione, ma che ha la forza appunto di controllare i poteri. Io vorrei chiedere a Francesco Mazzucotelli, dottore di ricerca in istituzioni politiche della Cattolica di Milano e collaboratore all'Institute for Global Studies di Roma, se questa visione appunto molto più politica che non sui fattori religiosi può essere valida appunto nel giudicare la realtà siriana. Professor Mazzucotelli. Sicuramente credo, come ha ben spiegato Alberto Negri, che sia difficile che emerga un'opposizione in grado di rappresentare una piattaforma credibile alternativa dopo così tanti anni di regime autoritario. La conferenza di salvezza nazionale che si è tenuta qualche settimana fa a Istanbul, da questo punto di vista, ha fatto emergere gran parte degli argomenti di contrapposizione su cui si è in buona parte arenato il dibattito. Sono emerse le diversità di punti di vista per quanto riguarda la questione curda, ma anche i rapporti tra Stato e religione, il ruolo della religione islamica in particolare nella visione politica presentata dai gruppi di opposizione. È da una parte una narrativa creata dal, dal regime di Assad molto chiara, in cui le manifestazioni sono state sempre presentate come opera di agenti provocatori provenienti dall'esterno, agitando lo spettro di gruppi salafiti, di gruppi radicali islamici, la discesa del paese nel caos di una guerra civile, di una guerra confessionale nel caso di una vittoria dell'opposizione. È anche vero che i gruppi di opposizione in larga parte non hanno avuto la capacità di fugare questi spettri e questi dubbi. È anche vero che gran parte delle minoranze confessionali presenti all'interno della Siria, penso in particolar modo alla minoranza cristiana, continuano in gran parte a manifestare un sostegno nei confronti dell'attuale regime, perché non è molto chiaro quello che gruppi di opposizione, in particolare alcuni gruppi islamici, hanno in mente per un eventuale futuro alternativo a quello dell'attuale status quo. Ecco, quindi sì, una regione in cui appunto la contrapposizione tra i vari gruppi è in fondo un segno di debolezza e una mancanza di unità in una strategia poi complessiva che deve tener conto anche della realtà geopolitica del territorio, in cui come dicevo prima c'è Israele, c'è Iraq, c'è la Turchia, in fondo la Siria è circondata ed è un perno importante di questa realtà. Sentirei Roberto da Modena, buongiorno. Buongiorno, non ho potuto ascoltare tutta la trasmissione, per cui ho l'impressione che siano state dette alcune inesattezze da parte del professore, ma a piccolezza si tratta di questo. Vede, in Siria cristiani, curdi, musulmani, eccetera, etnie e religioni diverse convivono oggi, parlando dei cittadini, non del regime, in modo assolutamente pacifico, anzi addirittura i cristiani sono considerati una elite culturale dai musulmani e dalle altre etnie che ci sono, per cui questo è molto importante. L'altro argomento importante è questo: i rivoltosi, quelli che vogliono rovesciare il regime con la forza, non sono la maggioranza dei siriani, sono soprattutto quelli animati, sponsorizzati dai salafiti, che sono poi i fratelli musulmani, eccetera. Per cui, sebbene quello sia un regime terrificante oggi, come sta dimostrando Assad in questi giorni, il timore di tutti i siriani, anche di quelli che vivono, della maggior parte di quelli che vivono in Italia, all'estero, eccetera, è che l'alternativa possa essere peggiore. Ne è testimonianza, e poi chiudono, le rubo altro tempo, che alla conferenza che hanno fatto di recente ad Istanbul, tutte le opposizioni assieme, non si è conclusa positivamente per un motivo, perché quando la parte più islamica ha detto che una volta vinta questa rivoluzione si sarebbe chiamata la Siria Repubblica Araba Siriana, i curdi e gli altri sono usciti dalla conferenza dicendo che la parola araba va tolta, no? Perché non vogliono assolutamente dare un aspetto islamico ed arabo alla loro azione, ma vogliono semplicemente delle riforme. Io credo che sia tardi oramai per Assad fare le riforme, ma credo che l'alternativa possa essere decisamente nel tempo peggiore a quello che c'è adesso. Grazie per questo intervento. Indubbiamente, come diceva prima il professor Mazzucotelli, c'è stata questa conferenza, ci sono state queste divisioni, c'è stata anche appunto l'impressione di una realtà difficile da gestire da parte delle opposizioni, e dal fatto che pur con tutta la repressione sia un po' paragonabile il regime di Assad a quello di Saddam. Certamente l'Iraq era una realtà che viveva sotto un regime di repressione, ma poi gli anni successivi sono stati certamente ben più difficili. Su questo fronte volevo rapidamente sentire l'opinione del professor Parsi. Professor Parsi. Non c'è dubbio che un regime come quello, è stato detto da chi mi ha preceduto, sostanzialmente un regime come quello siriano è un regime che ha mantenuto l'ordine, un ordine in cui i diritti di nessuno contano. Quello che a cui stiamo assistendo è un tentativo di cambiare un equilibrio con la rivendicazione di diritti da parte di una massa di cui non conosciamo ancora chiaramente né le caratteristiche più precise, perché quello che lei ha sottolineato prima è fondamentale da ricordare. Noi non abbiamo purtroppo nessuna possibilità di verificare alcuna informazione di quello che sta succedendo. Ci sappiamo, è evidente, che qualcosa sta succedendo, ma non abbiamo la possibilità di verificare che cosa. E dall'altra parte non conosciamo, ed è fondamentale chiaramente per l'esito successivo, i rapporti di forza all'interno di questa, di questo fronte del dissenso. Il problema chiaramente è che, andando avanti la repressione, il regime si distacca sempre di più dal suo popolo. Nel momento in cui un regime inizia a massacrare il suo stesso popolo, quella legittimità che comunque anche un regime autoritario, anche un regime per molti versi totalitario come è stato per tanti decenni quello siriano, soprattutto in passato, perde la sua legittimità, comunque l'avesse conquistata, la vede erodere, e quindi questo fatto genera grandi dubbi, grandi perplessità. Poi che il futuro sia peggio del presente, secondo me, beh, intanto grazie a Dio non abbiamo una sfera di cristallo, e dall'altra parte bisogna essere anche su questo realisti. Il problema è che, a mio avviso, il regime siriano ha pochi presupposti per poter andare avanti nel lungo periodo ormai, e quindi il futuro sarà probabilmente comunque un futuro diverso. Il giorno migliore, beh, bisognerà vedere, anche se guardiamo all'Iraq, se giudichiamo la situazione in questi ultimi anni rispetto a quello che era il regime di Saddam, vediamo semplicemente la fine del monopolio della violenza e del terrore e l'inizio, diciamo così, di un mercato della violenza. Se poi però dopo questo mercato ci sarà un regime più democratico, beh, sarà un passo avanti rispetto al terrore dei tempi saddamiani. La stessa cosa per esempio la Siria. Certo. Facciamo molta attenzione a non confondere la transizione con l'esito, perché sennò in qualunque momento è un momento di caos. Certo, anche in Libia in fondo si prospetta lo stesso problema: quale può essere la transizione dopo un regime di Gheddafi, come se è possibile che una dittatura possa cambiare, o se è necessario abbatterla per cercare di cambiare pur gradualmente. È un problema politico che comunque non è certamente nuovo nella storia, della storia dell'umanità. Buongiorno, bentornati a Nuova in Punto. Stiamo parlando della Siria, stiamo parlando della difficile situazione di quel paese, con un regime di Assad che sta attuando una repressione dura verso gli oppositori. All'inizio del mese del Ramadan, quasi come un simbolo nel voler portare appunto questa repressione, del far tacere coloro che chiedono riforme e una maggiore libertà. Come si inserisce questa realtà siriana in una tendenza appunto dei paesi arabi, dei paesi nordafricani e dei medio orientali, che si è sviluppata negli ultimi mesi con alcune proteste, con alcune rivolte, con alcuni casi clamorosi come quello della Libia, in cui c'è in atto un impegno anche internazionale contro il regime di Gheddafi. Qual è il significato anche di questi movimenti all'interno di una realtà religiosa come quello dell'Islam? Io ringrazio Franco Cardini. Buongiorno Cardini. Buongiorno. È uno dei più autorevoli studiosi della realtà islamica, docente di storia medievale all'Università di Firenze, osservatore dei movimenti che fanno capo appunto anche ai temi religiosi. Allora, professor Cardini, come si inserisce questa rivolta siriana in questa tendenza generale, se esiste questa tendenza generale di un po' di liberalizzazione del sistema islamico, professor Cardini? Beh, per la verità è molto difficile poter parlare con certezza del senso di quella che forse con un po' di precipitazione in generale è stata chiamata primavera araba, eccetera. In realtà c'è stato un momento all'inizio di quest'anno, più o meno ce lo ricordiamo tutti, in cui soprattutto nell'Africa settentrionale, cioè nell'Africa mediterranea, l'Africa araba, si sono verificati movimenti che però sono di diversa natura. Il movimento tunisino, per esempio, ci ha preso tutti di contropiede, ed è strano che gli osservatori non abbiano approfondito che cosa sta succedendo in Tunisia. Io ho fatto caso al fatto che ormai di quello che succede in Tunisia non si parla quasi più, si parla pochissimo di quello che sta succedendo in Egitto. Ci sono stati movimenti, ci sono ancora, e mi risulta anche piuttosto violenti. violenti, con repressioni violente un po' in tutta la penisola arabica, nella stessa Arabia Saudita, nello Yemen, se ne parla pochissimo. Il caso siriano è un caso eccezionale, non solo per la forza del movimento, che però è un movimento composito, anche quello di difficile lettura. Il regime siriano ha più volte sottolineato che è un movimento nel quale esistono componenti che noi definiremmo fondamentaliste, ed è molto probabile, perché il fondamentalismo, quello che noi chiamiamo fondamentalismo, è una realtà del mondo musulmano, come, e non solo del mondo musulmano. Abbiamo visto purtroppo che ci sono fondamentalisti anche cristiani. Il caso norvegese, anche se è un caso limite di un folle, però scopre un po' una geografia un po' allarmante. Esiste un fondamentalismo indù, un fondamentalismo ebraico, eccetera. Nel mondo musulmano noi abbiamo gridato un po' troppo presto alla liberazione e alla voglia di democrazia, perché in realtà le istanze, anche le istanze di libertà, le istanze di progresso sociale, si possono presentare nei modi più vari. Il movimento libico ce lo fa vedere, si è creata una realtà, soprattutto in Cirenaica, che inglesi e francesi si sono affrettati a sostenere qualche mese fa. Poi il tutto è diventata una sorta di guerra civile, una guerra tribale, in cui la stessa NATO e quindi gran parte dei nostri paesi sono entrati, però probabilmente un po' troppo velocemente, senza avere troppo ben valutato che cosa stava succedendo. Anche poi sul piano del diritto internazionale non ci si può dimenticare, noi etichettiamo un po' troppo con una certa leggerezza a volte certi governi, dicendo ma è un governo dittatoriale, come se questo bastasse a spiegare tutto. Qui siamo davanti a governi che per decenni hanno avuto una partnership anche con noi, sono riconosciuti dalle Nazioni Unite, eccetera. Esiste un diritto internazionale, quindi anche il caso di Gheddafi, che a un certo punto si vede da accolto addirittura quasi trionfalmente, in un modo un po' ridicolo, anche da noi a Roma, ce ne ricordiamo, anche se facciamo finta di non ricordarcene. Noi abbiamo firmato un patto d'amicizia con Gheddafi nello scorso anno, che poi abbiamo disatteso. Siamo dalla parte della ragione perché Gheddafi è un dittatore, ma questo lo sapevamo anche prima. Lo stesso discorso va fatto anche per il presidente Assad. Su Assad, sull'attuale presidente Assad, il figlio del famosissimo dittatore Assad, sappiamo molte cose, e sappiamo anche che ha un ruolo internazionale molto complesso, i rapporti con Libano, i rapporti con l'Iran. A questo punto ci si chiede, la posizione internazionale della Siria è molto complessa, è molto delicata. Questi movimenti sono tutti e soltanto movimenti di liberazione rispetto a un regime di tipo autoritario, di cui conosciamo i connotati, oppure c'è qualche cosa di più complesso, cioè una situazione internazionale che è anche sostenuta, che può avvenire, può essere, certo, determinata anche da influenze esterne, in qualche modo gli stessi oppositori del regime di Assad hanno a loro volta degli appoggi di tipo internazionale. Tutte queste cose noi non le sappiamo, non riusciamo a giudicarle con sufficiente informazione e con sufficiente approfondimento. Certo, sono tutti problemi aperti, professor Cardini. Vorrei proprio chiedere, per concludere, ringrazio della sua analisi. Allora, l'elemento religioso, l'elemento islamico è uno degli elementi e forse nemmeno il più importante nell'attuale evoluzione della situazione siriana. No, perché bisogna tenere presente molte altre cose. Intanto la situazione siriana è molto complessa dal punto di vista religioso. Non bisogna mai dimenticare che la famiglia di Assad è una famiglia legata a un movimento religioso, gli alawiti, che sono una minoranza religiosa all'interno della realtà siriana, una minoranza non troppo ben vista dai musulmani che potremmo definire estremisti, una minoranza per esempio molto tradizionalmente molto filocristiana. Non a caso la chiesa siriana, mentre la chiesa copta egiziana fin dal primo momento, quando c'è stato il movimento contro Mubarak, si è schierata fortemente contro Mubarak, nonostante ci fossero anche contro Mubarak i fratelli musulmani. Noi ci aspettavamo, siccome i fratelli musulmani sono, o passano per essere, in gran parte lo sono, degli estremisti, noi ci aspettavamo da parte dei cristiani, che tradizionalmente non hanno buoni rapporti con i fratelli musulmani, ci aspettavamo cautela. Invece la Chiesa cristiana si è schierata molto fortemente contro Mubarak. Questo noi non ce l'aspettavamo ed è un fenomeno che non abbiamo letto attentamente. La Chiesa cristiana siriana, la Chiesa tradizionale monofisita cristiana siriana, una delle chiese cristiane più antiche di tutto il Medio Oriente, si è schierata, non dico pro Assad, questo no, ma si è schierata con molta cautela, mostrando i pro e i contro, parlando di influenze esterne che avrebbero determinato il movimento, eccetera. Ecco, questo elemento noi non lo abbiamo letto con sufficiente attenzione. Siamo partiti da una posizione un pochino dogmatica, come abbiamo fatto qualche mese fa con Gheddafi. Gheddafi è un dittatore, Gheddafi ha torto, Assad è un dittatore, Assad ha torto. Sì, io capisco che l'opinione pubblica vuole verità semplici, vuole schierarsi, vuole sapere da che parte stare, però la realtà è molto più complessa e noi questa primavera araba continuiamo a parlarne, ma continuiamo a non saperne abbastanza. Per esempio, non abbiamo mai guardato dentro con sufficiente attenzione alla composizione del movimento anti-Gheddafi in Cirenaica. Ne abbiamo parlato sempre come di un movimento unitario, poi abbiamo scoperto che si picchiano, che si ammazzano fra loro, e che quando Gheddafi all'inizio del movimento denunziò la presenza di fondamentalisti, nessuno lo stette ad ascoltare, ma in realtà i fondamentalisti ci sono ed è anche giusto che ci siano, sono una forza all'interno del movimento musulmano che non possiamo dimenticare, che non possiamo demonizzare. Quindi non c'è la dittatura da una parte e la democrazia dall'altra. Grazie mille, grazie professore. Il progresso da una parte e la scelta dell'università dall'altra. Grazie mille, grazie professor Cardini per questo suo intervento, per questa sua analisi. Indubbiamente la complessità fa parte della storia e cerchiamo, molto spesso anche i giornalisti cercano di semplificare le visioni, ma semplificare può portare anche a vedere le cose molto parzialmente, a non tener conto di quella che poi può essere l'evoluzione della realtà. Ma noi dobbiamo continuare a parlare, dobbiamo continuare a mettere in luce appunto questi problemi e proprio questi interventi ci aiutano a dare una dimensione il più possibile completa di questa realtà. Rieccoci a 9 in punto, ultima parte del nostro programma. Stiamo parlando della Siria, della realtà di questo paese, della realtà del Medio Oriente, di questa difficile situazione dal punto di vista anche geopolitico internazionale, del valutare attentamente quelli che sono i movimenti che stanno agendo nell'ambito appunto di questi paesi. C'è stata la primavera araba, si è parlato molto negli ultimi mesi delle rivolte in Tunisia, in Algeria, in Libia, che poi in Libia sono sfociate nel conflitto che è ancora aperto. Abbiamo avuto Franco Cardini che nella seconda parte del programma ci ha un po' illustrato appunto la complessità di questa realtà e la necessità anche di evitare le semplificazioni cercando di dividere il bene e il male da una parte e dall'altra, perché la realtà è molto più complessa di quanto noi vorremmo che fosse, e questo rende anche più difficile il giudizio e anche la possibilità poi di intervenire efficacemente su queste realtà. realtà. Ecco, indubbiamente la vicenda libica pesa su come si giudicano anche le altre vicende, anche se ci sono molte diversità, di fondo, come notava appunto Franco Cardini. Allora vorrei con i nostri ospiti concludere un po' questa analisi, vedendo quale può essere, certamente nessuno ha la sfera di cristallo, ma fare delle ipotesi è indubbiamente importante anche per capire, per riuscire a giudicare poi quale può essere l'evoluzione della realtà politica, come si può sviluppare questa realtà. Allora, professor Parsi, questi elementi di opposizione al regime di Assad possono essere qualcosa che smuovono il regime, che fanno diventare la Siria un paese un po' più democratico, anche se comunque è un paese in cui c'è una tolleranza religiosa, c'è una libertà almeno formale di culto, certamente non c'è una libertà come l'intendiamo noi in Occidente, però questa transizione può essere possibile o è necessario, come dire, per semplificare, abbattere il tiranno? Professor Parsi. Ma intanto, premesso che evidentemente le differenze sono presenti, sono notevoli in ogni singola rivoluzione, però l'elemento comune che ha fatto poi muovere l'Occidente, che ci fa guardare a queste situazioni con molta durezza, è il fatto che i regimi abbiano iniziato a massacrare in scala industriale i propri sudditi, e questo è quello che ha spiazzato, riposizionato Gheddafi, riposizionato Assad. Non è che una mattina ci siamo svegliati come delle verginelle scoprendo che a un certo punto c'erano delle dittature in quella regione del mondo, no, qui è successo che i dittatori hanno iniziato a usare i carri armati degli aerei contro i loro sudditi, e questo ci ha costretto in qualche modo a prendere una posizione dura, non perché siamo manichei, ma perché quello che succedeva era eccessivo anche rispetto a quello che i dittatori fanno, quindi questo è il punto fondamentale da non dimenticare. Io credo che a questo punto la possibilità di autoriforma del regime sia sostanzialmente molto bassa. Nel caso poi del regime siriano, che è un regime che vede al potere una setta, quindi vede al potere poche persone rappresentate, per così dire, dal clan tribale di Assad, ma anche tante persone, nell'interesse di tante persone, perché parliamo comunque di una setta che rappresenta circa l'8-10% del paese, la probabilità di riforma è molto bassa. Oltretutto la probabilità di riforma è ancora più bassa una volta che si è intrapresa la strada della repressione violenta. Il ballo di sangue che si è costruito tra chi è al potere e chi viene colpito mi pare che sia incolmabile ormai, per cui credo che le possibilità siano due: o il regime riesce sulle orme del padre, Assad il figlio fa un'ecatombe, riesce a tenere il potere, oppure questo regime crolla. Rispetto a 30 anni fa, a quello che evocava prima molto bene Alberto Negri, la differenza fondamentale è la comunicazione. Cioè, quello che riuscì 40 anni fa, riuscì perché non si seppe nulla in contemporanea, per così dire, fuori dal paese e addirittura nel paese. Oggi questo non è più possibile. I 1400 morti probabili di oggi pesano enormemente di più dei 20.000, forse 40.000 di 30 anni fa. Questa differenza credo che giochi contro il regime. Cosa verrà fuori poi? Credo che è veramente una vera sfera di cristallo. Credo che però il regime, dal mio punto di vista, non possa andare avanti a lungo. Grazie, professor Parsi. Indubbiamente la società della comunicazione non è solo uno slogan, ma è qualcosa di reale. Siamo in una situazione diversa rispetto al passato, perché grazie appunto all'informatica, alle comunicazioni, all'internet, ai social network, la comunicazione può essere più facile, anche se comunque non ancora del tutto facile, perché sulla Siria l'informazione è ancora molto limitata, è ancora da fonti che non sono del tutto attendibili, anche perché non sono confrontabili l'uno con le altre, quindi su questo fronte c'è ancora una strada da compiere. Però sull'analisi politica vorrei sentire il professor Mazzocutelli. Professore, secondo lei quali sono le prospettive che ha di fronte un paese come la Siria? Io ho trovato molto interessante il punto di vista che è stato espresso dall'interlocutore che ha parlato prima della prima pausa pubblicitaria, che per la verità ha messo insieme salafiti e fratelli musulmani, cioè gruppi che al di là delle apparenze hanno origini e traiettorie diverse tra loro. C'è, credo, questo errore, forse comprensibile, ma che rimane comunque un errore di mettere insieme gruppi che sono differenti tra loro, anche se orbitano tutti nella galassia di quello che chiamiamo Islam politico o Islam radicale. Allora, l'interlocutore che ha parlato prima, con tutto il rispetto, ha espresso benissimo il punto di vista della narrativa, che dicevo, del regime e di quanti in questo momento in Egitto esprimono un punto di vista controrivoluzionario. Insomma, se le cose cambiano, vanno al potere i fondamentalisti musulmani, quindi è giusto che nulla cambi e che tutto rimanga così come adesso in questo momento. Questo, con rispetto parlando, è l'argomento che è stato utilizzato negli ultimi 30 anni e c'è da dubitare che abbia portato a qualcosa di buono. Dall'altro lato direi anche che i gruppi islamici contengono al loro interno una serie di contraddizioni strutturali, di differenze, perché il ricorso al linguaggio religioso nasconde dietro di sé delle istanze che sono diverse tra di loro. C'è chi utilizza il linguaggio religioso, il linguaggio dell'Islam politico militante radicale, per giustificare e legittimare delle istanze di conservazione di potere. C'è chi vuole che tutto cambi. È importante riuscire a fare queste differenze e a non fare, come dire, di tutta un'erba un fascio. Certo, grazie. Indubbiamente la realtà è composita e anche con le nostre prospettive, forse anche con i nostri criteri di giudizio, è anche difficile cercare di intravedere in questi movimenti, islamici, le differenze che lei giustamente sottolinea. Ma vorrei tornare anche sul tema dell'informazione, sulla difficoltà di avere informazioni reali, realistiche da queste realtà. Alberto Negri, è veramente così? È difficile? Ormai la Siria è un paese chiuso? Ma l'informazione è un doppio taglio, è un'arma a doppio taglio, l'abbiamo visto benissimo in Libia, Bengasi. A Bengasi ci sono stati molti meno morti di quelli che ci sono stati ad Hama, eppure la comunità internazionale è intervenuta bombardando Tripoli, bombardando le truppe di Gheddafi, facendo insomma un po' la guerra al posto dei ribelli e degli insorti, cioè quello che speravano loro e che non è in effetti del tutto accaduto. Cosa vuol dire che l'informazione è un'arma a doppio taglio? Molto semplicemente, in Libia si è detto subito che c'erano 10.000 morti da parte delle TV arabe. In realtà io sono stato a Bengasi, se ci fossero stati 10.000 morti ci sarebbero stati gli ospedali strapieni di feriti, perlomeno. Non era così, non è così. In Siria abbiamo difficoltà ad avere delle informazioni, però in qualche modo filtra che cosa? E questo ed è quello che ci interessa poi per capire un po' tutto quello che sta accadendo in questo mondo medio orientale, in questo mondo arabo. Filtra che è saltato in tutti questi paesi autoritari, autocratici, quel patto che ha retto in fondo tutto questo Medio Oriente. Il patto dei dittatori con il proprio popolo era questo: io vi prendo la vostra libertà, mi prendo la vostra libertà e vi do sicurezza e protezione. Questo tenne in piedi Saddam Hussein per decenni, questo ha tenuto in piedi Gheddafi per molto tempo, questo ha tenuto in piedi Assad e la sua famiglia fino al figlio Bashar, fino ad oggi in una sorta di repubblica ereditaria assai singolare. Ebbene, questo patto si è rotto il patto tra il dittatore e il suo popolo. Ed è difficile ricomporlo, anche perché è stato accompagnato, la rottura di questo patto è stato accompagnato anche dal fallimento politico, economico e sociale di questo regime. La Siria è fondata sul partito Baath, lo stesso che c'era in Iraq, un partito che venne tra l'altro fondato da un greco ortodosso e da un sunnita, quindi già nell'origine c'era quella che era il tentativo di tenere insieme, di comporre le varie componenti del paese. Questo patto si è rotto e oggi c'è una richiesta di libertà che è difficile da sopprimere. Ecco, grazie Alberto Negri, i tempi purtroppo sono molto stretti, comunque la tua analisi è molto importante, almeno come prospettiva. Parleremo ancora di Siria, Gianpaolo Musumeci, quando? Buongiorno. A tra poco. Alle 13.15, in nessun luogo lontano, torniamo a parlare di Siria e di Libia e delle difficoltà di raccontare, come giustamente avete detto anche voi, questi conflitti, queste strane bolle di sapone che i reporter sul terreno cercano poi di far scoppiare, di svelare, ma avremo anche anche voci da Hamas. Abbiamo raggiunto un paio di cittadini che ci racconteranno la loro visione, la loro versione di questa crisi siriana. Allora, il primo appuntamento alle 13.15 con Giampaolo Musumeci, Nessun luogo lontano. L'appuntamento con noi è per domani mattina. Io ringrazio Vittorio Emanuele Parsi, Alberto Negri, Francesco Mazzocotelli e Franco Cardini, che ci hanno tentato di illustrare questa situazione della Siria, del Medio Oriente, in tutta la sua complessità. Per illustrarla nella sua interezza ci vorrebbero delle giornate intere, perché le realtà sono estremamente complesse. Alcuni ascoltatori dei loro messaggi si dicono: come mai non avete parlato di Hezbollah, come mai non avete parlato di Pasdaran, come mai non avete parlato di questo, di quello. Non possiamo parlare di tutto, cerchiamo di mettere a fuoco i problemi, cerchiamo di dare alcune basi per cercare di capire meglio quanto sta succedendo, e questa è la nostra difficile missione. I tempi purtroppo sono quelli che sono. Ringrazio Carmelo Lauricella in regia e Giorgio De Luca in redazione. L'appuntamento è per domani.